La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Mi si scioglie la bocca quando sto per dirti parole. Mi si scioglie la bocca e ho paura si fermi anche il cuore. Mi si scioglie la bocca mentre scivoli tra le braccia di qualcuno a cui sorridi a stento. Cuore mio, non ti sento. Cuore mio, non ti sento. Chiedilo al vento cosa gli ho detto di te. Cosa è venuto a cercare il mio sguardo. Ben ritrovati a questa nuova puntata della prima volta, puntata che ha come ospite Antonio Diodato, 35 anni, cantautore italiano di grandissimo e riconosciuto talento. Benvenuto Diodato. Ciao. Ciao. Allora, tu sei nato ad Aosta, sei cresciuto in Puglia e da anni però vivi a Roma. La prima domanda che ti faccio è sul tuo nuovo album, Cosa siamo diventati, del quale ho visto si fa già un gran parlare, album che è molto delicato, di testo ricercato e autobiografico. Tu hai detto in alcune interviste che questo album è stato un po' come mettersi a nudo. Allora la prima domanda che ti faccio è cosa racconti in queste canzoni e soprattutto perché questa esigenza di mettersi a nudo? Racconto il mio vissuto degli ultimi anni e perché ho sentito questa esigenza. Non saprei, la musica poi è così, ti permette di dare sfogo a delle sensazioni. Sentivo di dover analizzare appunto questo vissuto e l'ho fatto tramite la mia musica. Credo poi che la musica sia un veicolo anche per analizzarsi, per provare a mettersi a fuoco sempre di più e sentivo di dover essere sincero soprattutto con me stesso nel raccontare questa storia. È un disco, come giustamente dicevi, molto autobiografico, poi non parlo solo di me, ma c'è anche il mio sguardo sulle cose che mi circondano. La cosa che ti sorprende quando vai così a fondo, quando provi a dire, ripeto, soprattutto a te stesso la verità, è che tu credi di raccontare qualcosa di tuo, qualcosa che ti allontana da tutto il resto, dalle altre persone anche, perché rappresenta un po' un unicum, perché c'è dentro la tua intimità. In realtà, ed è quello che mi sta succedendo con questo album, e me lo scrivono in tanti, anche attraverso i social o persone che incontro in questo periodo, in realtà questa cosa qui ti avvicina alle altre persone, cioè in tanti si ritrovano in quelle parole, in tanti si rivedono nel tuo vissuto ed è una cosa che ti sorprende, probabilmente è la magia della musica, è ciò per cui probabilmente ho iniziato a fare musica, ascoltavo le grandi canzoni degli altri autori e pensavo parlassero di me, è una cosa che ti sorprende e che continua a sorprendermi ancora oggi. Ecco, a questo proposito, tu che tipo di formazione hai? Cioè, nel senso, qual è la tua storia prima di diventare solo Diodato? Chi è Antonio Diodato? Ma io ho iniziato a suonare dalla cantina con gli amici, così per gioco, e contemporaneamente poi ho studiato, mi sono laureato al Dams di Roma in cinema, altra mia grande passione, e suonavo nei locali, ma così giusto per divertirmi, perché la musica è sempre stato il primo amore. Poi pian piano ho sentito l'esigenza di provare a raccontare qualcosa di mio attraverso la musica e quindi ho cominciato a scrivere, ho cominciato a cercare dei musicisti che mi stessero un po' vicino e che riuscissero a portarmi nella dimensione musicale in cui io pensavo le mie cose. e quindi mi sono circondato di una vera e propria famiglia musicale che mi segue sin dal primo album e ha lavorato con me a questi ultimi lavori e da lì ho cominciato a fare i primi concorsi, insomma la gavetta, quella vecchio stile. E poi sono arrivati appunto alla pubblicazione di un primo album e Forse sono pazzo. Da lì sono successe tante cose che mi hanno portato fin qui, fino a cosa siamo diventati oggi. Tante cose di grande rilievo, nel senso che ci sono state delle tappe fondamentali, il passaggio a Sanremo, Che tempo che fa, ma non solo, poi c'è stato anche tutto un riconoscimento, come dicevi anche tu, da parte del pubblico che ha interagito con te, che si è ritrovato appunto nei tuoi testi. Quindi com'è stato questo successo, che apparentemente è un successo veloce, immediato, ma in realtà, come ci hai raccontato, è un successo che ha tanti anni alle spalle. Come l'hai gestito questo successo? Ma io credo questo sia un, chiamiamolo, lavoro, perché magari sarebbe bello riconoscerlo anche come un lavoro molto complicato, molto difficile anche da gestire, se in continuazione su una sorta di delle montagne russe, le definisco un po' così. Devo dire che la vicinanza poi delle persone ti aiuta anche a ricaricarti, a sentire che insomma quello che stai facendo ha un senso, anche perché quando ti racconti, quando racconti te stesso, puoi anche pensare che non gliene freghi niente a nessuno, insomma, delle cose che dici. Oggi ovviamente anche tutto il mondo social ti permette di avere un riscontro quasi immediato, appena esce un tuo brano, appena esce un tuo disco, un nuovo album, la gente ti scrive, te ne parla già immediatamente. Quella cosa lì ti permette anche di farti un'idea, no, di come viene accolto un tuo lavoro. Sinceramente non ho vissuto grandi stravolgimenti, anche il Festival di Sanremo ci sono arrivato dopo un percorso abbastanza lungo, quindi l'ho vissuto molto con i piedi per terra. Ho voluto portare con me tutte le persone che mi avevano seguito sin dal primo momento, e questo mi ha aiutato a viverlo in una dimensione diversa. Non c'era nulla, insomma, di strano, era solo un momento meraviglioso, quasi un premio per tutto il percorso che avevamo fatto. Semplicemente lavoro un po' da artigiano che ogni giorno cerca di migliorare un po' quello che fa. Ecco, tu come lavori, visto che l'hai introdotto tu? Cioè, lavori molto sui testi all'inizio, scrivi prima la musica, com'è che lavori quando nasce una canzone? Dipende da tante. Ogni brano ha una storia a sé, e questo nuovo album è un album in cui ho lavorato molto sui testi, perché, ripeto, volevo fossero molto molto sinceri, molto veri. Ho lavorato a togliere tutti i filtri, tutti i tranelli che ci sono nella scrittura, perché comunque quando racconti qualcosa di tuo, inconsciamente tendi sempre anche a difenderti, e lo fai a volte cadendo in alcuni stereotipi, a volte evitando di dire completamente la verità. Questo è un disco invece in cui volevo avvicinarmi il più possibile alla verità, a quel nucleo che c'era dentro di me. E quindi su alcuni brani ho lavorato veramente tanto, altri sono venuti fuori così, improvvisamente, anche in maniera molto viscerale. Cioè, ci sono dei brani, ad esempio c'è Un po' più facile, che è una delle tracce di questo album, che è nata in 5 minuti. Ero a casa, ho acceso il microfono per registrare. Confesso di aver sentito i miei vicini, ho delle pareti molto sottili a casa, e ho sentito i miei vicini che facevano l'amore e quella cosa lì mi ha portato a ricordare un mio vissuto anche molto lontano da quella situazione lì, però non so per quale motivo ho ricordato una cosa che avevo vissuto un po' di tempo prima. Noi che eravamo gli unici in grado di comprendersi davvero, noi talmente simili, almeno così che ci sentivamo. Poi arrivarono silenzi, cresciuti in fondo chissà dove, erano i miei, erano i tuoi, non mi ricordo più il tuo nome, ci siamo tolti anche gli sguardi e le carezze a consolare, fino a sentirti dire piano, perché mi stai lasciando andare. Ma guarda cosa siamo diventati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta. Seconda parte della prima volta in compagnia di Diodato, cantautore italiano in uscita col suo nuovo album Cosa siamo diventati, considerato da molti già una conferma del successo raccolto col primo disco d'esordio che, lo ricordiamo, lo portò secondo al Festival di Sanremo fra le nuove proposte e a vincere un importante premio su MTV, sino a presentare come ospite fisso da Fabio Fazio, che tempo che fa, 10 canzoni, omaggio della canzone italiana, e qui lo sentiamo in Amore che vieni, Amore che vai di Fabrizio De André. Tu hai fatto molto riferimento anche nel corso di questa intervista alla parola famiglia, famiglia musicale, la mia band come famiglia di musicisti. Nell'album c'è anche un riferimento al tuo vissuto, diciamo, di ragazzino, da bambino, della tua famiglia. Che tipo di famiglia è stata? Che cosa ti ha lasciato? Ma forse anche, diciamo, questa è una mia interpretazione, forse nel negativo che lasciano anche certe esperienze familiari si possono trovare delle risorse. Non è un caso che tu poi riesca a trasformarle, no, in opera d'arte? Assolutamente sì, cioè sono assolutamente grato alla mia famiglia per tutto ciò che mi ha dato, che siano cose positive e cose negative, come credo poi accadano in tutte le famiglie. Certo. E quando si è bambini si è inconsapevolmente delle spugne che assorbono tutto, assorbono le tensioni, assorbono la violenza anche che a volte si manifesta all'interno della famiglia, anche involontariamente tante volte. E questa cosa qui mi ha assolutamente formato, ha creato delle fragilità su cui poi si è basata anche tutta la mia carriera artistica, mettiamola così, e quindi sono grato anche di queste cose qui, e sono cose che ho voluto toccare in questo album che si apre con un manifesto che si chiama, un brano che si chiama Uomo Fragile, ed è un brano in cui ci sono sicuramente io bambino, c'è il mio sguardo da adulto su quel bambino, c'è il mio sguardo da adulto sul bambino e su altri adulti che si comportano in un determinato modo davanti a quel bambino lì, e ho voluto, è un album in cui ci sono questi salti temporali anche, ci sono dimensioni all'interno di un testo, ci sono dimensioni che si muovono parallelamente, È un concetto che ritorna spesso all'interno delle tracce. Quindi sì, per me il concetto di famiglia, di nucleo, è anche un concetto molto caloroso e spero si senta, ed è una cosa che ho voluto curare molto anche con la musica, cioè è un disco che parla anche del freddo, ma lo fa con un certo calore. Poi tu adesso parlavi di uomo che guarda il bambino, facendo riferimento alla tua età, no? Tu hai 35 anni, questo è un altro tema generazionale, nel senso che questa generazione di trentenni è accusata di rimanere in una sorta di limbo adolescenziale, tu invece rivendichi molto l'essere uomo, l'essere cresciuto, da quello che mi pare di percepire. Ah, ci sto provando, ci sto provando, però... E anche questo è uno dei temi che tocco in questo album, assolutamente, mi sento parte di questa generazione e probabilmente anche riconosco in quale fragilità, talvolta anche una colpevolezza, cioè del senso di colpa anche nel sentirsi così, così fragili e nel non saper... è una ricerca anche questo album... delle responsabilità anche di certe insicurezze, di certe, ripeto, fragilità. C'è un brano che si chiama Per la prima volta, che probabilmente è il brano un po' più generazionale di questo album, è quasi un canto generazionale, o almeno è quello che io credo di aver percepito sia in me stesso ma anche nei miei in me stesso ma anche nei miei coetanei. Ci sono delle insicurezze che probabilmente appartengono anche al mondo che ci è stato dato, assolutamente una cosa che penso, però dobbiamo in qualche modo reagire e dobbiamo in qualche modo cercare di anche riconoscendo le nostre paure, le nostre insicurezze. Una volta riconosciute, probabilmente è possibile anche costruirci qualcosa sopra. Una volta palesate, una volta dal momento in cui smettiamo di vergognarcene anche, ma le riconosciamo, probabilmente è possibile anche appunto costruire su di esse. So che è un concetto un po' strano, però è una cosa almeno che sto provando a fare, poi vi farò sapere come andrà a finire. Forse una domanda così, una curiosità, visto che la mia trasmissione si chiama La prima volta, se tu ti ricordi la prima volta che hai avuto la percezione che dalla gavetta stavi facendo un passaggio, diciamo, avevi fatto un gradino? Probabilmente quando ho pubblicato il mio primo album e ho cominciato a sentire uno sguardo diverso su di me, quando ho cominciato a fare anche le prime date. E poi quando Daniele Lucchetti, un giorno il regista, mi ha chiamato e mi ha chiesto se poteva mettere la mia versione del brano di Fabrizio De André, Amore che viene, amore che vai, che è contenuta nel primo album, all'interno del suo film, Anni felici. Lì ho sentito comunque che qualcosa stava succedendo davvero. Poi è arrivato anche il Festival di Sanremo, insomma, sono piccole cose che ti danno però delle conferme e ti danno anche, ti incoraggiano ad andare avanti. La prima volta termina qua. Io vi ringrazio per averci seguito. Potete riascoltare queste altre puntate andando sul sito di Radio 24, cercate La prima volta, oppure venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio 24 - La prima volta. Un saluto a tutti e buon inizio di settimana da Cristina Carpinelli. A chiederci un bacio. Oh. sole.